Ecco, noi Simone Totola di Officine Ubu per parlare del film Sergio e Sergei, il professore e il cosmonauta di Ernesto Daranas, in uscita in sala il 24 maggio. Benvenuto e bentrovato. Ciao a tutti, buongiorno, ciao. Simone, lo raccontiamo? Sì, certo. Allora, siamo nel 1991 e la guerra fredda è finita e l'Unione Sovietica è crollata, ma solo un uomo deve ancora scoprirlo e si tratta appunto di Sergei, che è l'ultimo cosmonauta sovietico che è rimasto bloccato sulla stazione spaziale Mir. L'agenzia non ha i fondi per riportarlo a casa e quindi è costretto a rimanere in orbita in attesa di un aiuto. Nel frattempo, in una Cuba impoverita e prossima al collasso, abbiamo Sergio, che è un professore di filosofia, che capta casualmente il segnale radio di Sergei tramite la sua radio clandestina. E i due diventano così amici e Sergio, con l'aiuto di Peter, che è un amico americano con delle conoscenze nella NASA, interpretato da Ron Perlman, progetta una rocambolesca missione di soccorso per salvare il povero Sergei dalle profondità dello spazio, una missione veramente bizzarra perché avrà l'intervento di uno scomodo sponsor americano. Però in tutto questo Sergio non sa che è sotto sorveglianza e che il governo cubano sta seguendo ogni suo passo. Ecco, questo è, diciamo, il riassunto delle tante vicende che succedono in questo simpatico film. Sì. Senti, dove lo avete scovato? Allora, Sergio Sergei è passato in numerosi film di cinema latino in tutto il mondo, ma è stato presentato in anteprima al Festival di Toronto. Quindi lo abbiamo beccato lì, diciamo. Ok. Senti, del regista sappiamo altro? Allora, Ernesto Daranas è uno dei registi più famosi e più premiati di Cuba. Lo stesso Sergio Sergei ha vinto tantissimi premi in tutto il mondo. I film di Daranas sono stati scelti spesso come rappresentanti di Cuba agli Oscar. L'ultimo film di Daranas arrivato in Italia è stato Condotta nel 2014 e quindi siamo stati ben felici di riportare questo bravissimo autore anche di nuovo nel nostro paese. Ok. Senti, quali sono gli elementi del film che più ti hanno convinto? Innanzitutto questa amicizia assolutamente originale, inaspettata tra due persone molto distanti da loro, ma incredibilmente vicine. E la cosa che ci ha colpiti maggiormente è stato l'apporto, diciamo, geografico nel film, nel senso che qui si ispira ad una storia realmente accaduta, che è quella del cosmonauta Sergei Krikalev, che rimase davvero nello spazio a bordo della Mir per 311 giorni, proprio nel periodo in cui l'Unione Sovietica crollò, però l'agenzia non ebbe fondi sufficienti per riportarlo a casa e quindi lui fu costretto a prolungare di più di altri 6 mesi la sua permanenza. Tanto che quando tornò, appunto, l'Unione Sovietica era crollata, Gorbaciov si era dimesso e la sua stessa città natale, che era Leningrado, si chiamava San Pietroburgo. Quindi lui ritornò e trovò un mondo completamente cambiato. Dall'altra parte, il personaggio di Sergio è ispirato alla vita dello stesso regista di Daranas, perché lui stesso, nell'inizio degli anni 90, dopo essersi laureato in filosofia, scoprì che purtroppo la sua laurea non lo avrebbe aiutato a mantenere la sua famiglia e quindi dovette reinventarsi e creò in casa sua una distilleria clandestina, che è la stessa cosa che il personaggio di Sergio fa nel film per cercare di mantenere la sua figlia e l'anziana madre. Simone, che uscita sarà? Sergio Sergei uscirà giovedì, appunto, 24 maggio in circa 30 sale in tutta Italia e come al solito noi speriamo di allargarci sempre di più, come è successo comunque anche con gli ultimi nostri film, e saranno uscite selezionate nelle sale di qualità e cercheremo di raggiungere sempre più le province e quindi di allargarci sempre di più nelle prossime settimane. Ok, allora ricordiamo l'uscita in sala di Sergio e Sergei, il professore e il cosmonauta di Ernesto Daranas in sala dal 24 maggio. Un saluto e un ringraziamento a Simone Totola di Officine Ubu che lo distribuisce. Simone, un abbraccio e a risentirci Grazie a voi. presto. Grazie. Grazie mille, ciao a tutti.